Componimento undicesimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Lassare il velo, o per sole o per ombra, donna, non vivi Dio, poi che in me conosceste il gran desio, ch'ogni altra voglia dentro al cor mi sgombra. Mentre io portava i bei pensier celati, ch'hanno la mente desiando morta, vidivi di pietate ornare il volto. Ma poi ch'amor di me vi fece accorta, fuori biondi capelli allor velati e l'amoroso sguardo in sé raccolto, quel chi più desiava in voi m'è tolto. Sì mi governa il velo che per mia morte e dal caldo e dal gelo debe vostr'occhi il dolce lume ad ombra. Fine del componimento.